tipo alle polveri. Go Hal and Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Fin dalla sua uscita ufficiale, avvenuta il 5 novembre 1935, il Monopoly divenne il gioco simbolo del capitalismo. Eppure, anche se sembra incredibile, in origine il suo scopo era quello di combattere la proprietà privata. Secondo la storia tradizionale, sarebbe stato un certo Charles Darrow, un meccanico disoccupato, a inventare e commercializzare il Monopoly. Ma le storie ufficiali non sempre sono vere. Questo famoso passatempo fu in verità partorito dalla brillante mente di una donna dell'Illinois, Elizabeth Magee. Lizzie per gli amici. Lizzie era una donna dalla mente acuta e dalle idee molto più moderne del tempo in cui viveva. Una progressista che credeva nelle teorie economiche di Henry George, secondo cui gli individui dovevano essere proprietari di tutto ciò che producevano, mentre quello che si trovava in natura, ad esempio i terreni, doveva essere messo in comune. Fu proprio per spingere l'efficacia delle tesi georgiane che Maggie creò The Landlord's Game, il gioco dei possidenti, introducendovi una regola a noi oggi sconosciuta. Era infatti ammessa la cooperazione tra i vari giocatori, i quali potevano scegliere di versare l'affitto non a un singolo proprietario, bensì a un fondo comune. In questo modo, l'intraprendente donna voleva mostrare, praticamente, quali fossero i difetti del sistema capitalista e quali, invece, i pregi delle teorie georgiane. Lizzie brevettò il suo gioco nel 1904, ma soltanto nel 1906 fu messo in vendita. Sebbene popolare, non vendette molto, poiché come era usuale al tempo, le famiglie producevano delle versioni casalinghe del gioco e poi se lo scambiavano. Fu proprio passando di casa in casa che una serata tra amici, ben 30 anni dopo la sua uscita, il gioco finì tra le mani di Darrow, il quale decise di creare una sua versione più moderna, comprata poi dalla Parker Brothers per $7,000 e messa in commercio con il nome di Monopoly. Il The Landlord's Game ormai non esisteva più e chi ne rubava l'eredità avrebbe distrutto il suo principio fondamentale. Era il 5 novembre 1935. Leggiamo da Cronache Ribelli, Almanacco di Utopie Reali, Identità Indelebili e Rinnovata Memoria. E naturalmente questa era la voce di Tuco, che dalla regia di Fuoco alle Polveri ancora una volta ci riscalda. In regia, oltre a me, abbiamo Olmo e ospiti illustri, Budini Gattai e Antonio Fiorentino, architetti, urbanisti che pubblicano, scrivono sulla rivista Per un'altra città, una delle nostre fonti preferite, ma siamo abbastanza in ritardo quest'oggi, caro Tuco. Dobbiamo dirlo? Direi, siamo piuttosto in ritardo, scusateci, quindi, problemi tecnici. Problemi tecnici, come mai abbezzi. Ne abbiamo, ma esatto, siamo abituati noi, ma anche voi dovreste esserlo, quindi... Per ovviare a questo ritardo iniziamo subito con abbiamo la nardellata. E allora andiamo con la sigla. Contro Dario è una Dario stupenda. Hai ascoltato? Contro Dario. Ecco la cosa giusta, scusami. Ok, benissimo. Allora, salve a tutti. Bentrovati a Controdario, la rubrica più anti-nardelliana della radio del mondo. Del mondo, si può dire, dai. Non penso che ci siano altre persone che fanno la nostra stessa cosa. Problemi tecnici. È proprio di ubicazione del nostro nardelliano. Nardellese, nardellato, l'amante di Nardella, insomma, che ora sta cercando un posto nella spaziosissima regia di Fuoco alle Polveri. Infatti sta correndo da una parte all'altra per i chilometri, rischiando anche la pellaccia, fra l'altro. Non lo potete vedere, ma io ve lo descrivo. Eccolo. Oh, eccoci qua. È una fatica parlare di Nardella tutte le volte, eh. Madonna, Nardellino. Allora, cominciamo dalla newsletter numero 54 del 31 ottobre 2018 dal sito di Dario Nardella. Attenzione, apre il tutto una bella citazione che vi faccio indovinare un po' di chi è. Metto un dito sopra così non potete leggere. Oggi nessuno insegna più ai giovani quanto è bello essere delle persone per bene. Io pensavo fosse qualcuno di verde? No. Ned Flanders. Ned Flanders. Ned Flanders, vero? No. Wanda Ferragamo. Ah, no, Wanda Ferragamo. Oh, okay. Ma che dispiacere per Wanda Ferragamo. Vabbè. Oh. Allora, inizia la newsletter di Nardella. C'è una cosa che ogni volta mi fa andare su tutte le furie, un fenomeno che proprio non tollero, ed è vedere grossi sacchi neri e rifiuti ingombranti abbandonati fuori dai cassonetti. Si torna ancora sui sacchi neri. Meglio bruciarli tutti. Per questo all'inizio dell'anno la Polizia Municipale ha effettuato 340 interventi di contrasto, con 229 sanzioni amministrative e 9 denunce penali. Da un mese abbiamo attivato il giro per la città delle fototrappole per incastrare i furbetti del cassonetto e già stanno dando i primi risultati. Ora basta, Firenze si merita cura, non sudicioni senza rispetto per la propria città e per gli altri. È vero, la pensiamo anche noi così. Attenzione, poi abbiamo altro titolo, Firenze sicura. Oltre ai vigili di quartiere e agli agenti che quotidianamente presidiano la nostra città, da oggi abbiamo 16 nuovi agenti di polizia municipale. E vai. Attenzione. Grazie di cuore alla Fondazione Cassa Risparmio Firenze per aver finanziato il 50% di questo progetto al braccetto. Sì, siamo i primi, fra l'altro, ho visto la prima città italiana ad avere parte della polizia municipale finanziata da un soggetto privato, in questo caso l'ente Cassa di Risparmio di Firenze, perché su 16 poliziotti, è una cosa che è uscita ora, su 16 la metà, 8 sono assunti dal comune, cioè sì, pagati direttamente dal comune, e altri 8 invece dalla Cassa di Risparmio di Firenze. Continua Nardella, a Firenze mancano 250 poliziotti, motivo per cui ancora una volta chiedo ai ministri dell'interno Salvini, al ministro dell'interno Salvini, un'azione su questo l'amico tema. L'amico Salvini. Esatto, l'amico. Dopodiché, attenzione, doveva fare opposizione Nardella. Sì, vabbè, ora poi ne parliamo meglio di queste storie qua. Perché nel frattempo, attenzione, c'è stato anche, ora esco dalla newsletter del sito di Nardella e andiamo invece sul discorso della sicurezza, no? Vi ricordate, se ne era parlato qualche fuoco alle polveri fa, della grande petizione di Nardella per la sicurezza, per richiedere più forze dell'ordine e tutto quanto. Lo ha zittito Alberti della Lega dicendogli fondamentalmente smetti di piangere Nardella perché te l'abbiamo già dati sostanzialmente. Penso sì. In pratica poi lo scambio tra Nardella e il consigliere regionale della Lega comincia già molto tempo fa. Il 9 ottobre aveva detto che gli avrebbe portato la tessera della Lega. Ma non si capisce fra l'altro chi dice cosa a chi. No, Alberti a Nardella gli ha detto: ah, siamo a posto Nardella, ti porto la tessera della Lega. Al giorno quello in cui doveva cominciare, il 17 ottobre mi pare, la raccolta firme per la petizione e richiedere più sicurezza, poliziotti, certo, più tutto quanto. Alberti ha detto: gli vado a portare la tessera della Lega. Non ho poi trovato se questo 17 ottobre alla Fortezza, quando è cominciata questa raccolta firme per la petizione famosa di cui abbiamo parlato, c'è stato poi ci sia stato o meno questo scambio, poi magari sotto banco. Sì, dice, a presa di culo questo Alberti aveva cominciato a compilare il form per la tessera della Lega, Dario Nardella, tutti i dati di Nardella, insomma questo siparetto qua, insomma, questione sicurezza, diciamo parecchio. Sicurezza, spazzatura. E poi ci abbiamo anche un discorso del controllo di vicinato, e quindi ancora si arriva sulla sicurezza. C'è stata un'intesa il 30 ottobre con 26 comuni dell'area metropolitana fiorentina, quindi insomma hanno firmato un po' tutti i sindaci. E per attivare questo discorso di controlli del vicinato, che è un progetto che intende promuovere la cittadinanza attiva attraverso fare la spia al vicino. Esatto, fare la spia al vicino. E quindi niente, in futuro si vedranno anche, insomma, tutti sbirri praticamente. Ci sarà anche delle zone, quelle in cui si sperimenterà questo controllo del vicinato, saranno segnalate, e poi il controllo potrà essere integrato anche con telecamere del comune, eccetera eccetera, creando, che diciamo, angoscia, una rete tra il cittadino, no? E il comune, certo. Poi quello ci vuole, sì, esatto, in questo senso qui serve proprio. E gli sbirri ovviamente. Vai. Fuori in tutto ciò, mentre c'era tutto questo, c'è stato anche un presidio davanti alla prefettura durante questo incontro, sempre per il discorso del decreto Salvini per l'ordinanza, quella dei coprifuoco per i migranti, sostanzialmente, che devono stare nei CAS dalle 20 di sera alle 8 del mattino. E il tutto da parte della rete antirazzista fiorentina, insomma, tutti un po'. E c'è stato questo sì, presidio. Sì, dovuto, fra l'altro. Perché insomma, dalle 8 alle 8, per ragazzi di 20 anni, se non anche più giovani, vuol dire di fatto privarli di una grossissima libertà. E in tutto ciò i 30... Ingiustificata, fra l'altro. Esatto. I 30 sindaci nel frattempo erano lì a discutere di questi provvedimenti da Salve Salvino vicino, insomma. Bravi, meno male che ci sono loro che si preoccupano della nostra sicurezza, perché effettivamente è a rischio, è stata messa a rischio chissà da chi, e quindi insomma è bene che qualcuno si... Sembra sia centrale, sembra sia l'unico tema ultimamente di cui si può parlare. E di che vuoi parlare? Forse di una città invasa, di una città mercificata? No, no, sì. Chiudendo un po' la panoramica su Nardella, poi vi ho portato una chicca che ho trovato su YouTube quest'oggi per puro caso, ma una chicca del 2014, non so se qualcuno se l'era già gustata, comunque è una chicca di Radio 2 di Nardella, che suona il violino e farà un qualcosa di... cioè, di, insomma, le sviolinate di Nardella ci sorprendono tutte le volte a Controdario, la vostra Dario preferita. E... un'altra news del 26 ottobre, ma insomma poi ce ne sono altri collegati, riguarda Global Service. Il sindaco Dario Nardella fa il punto ad un mese dall'avvio del servizio. Cosa succede sostanzialmente? Ora, non si capisce benissimo nello specifico com'è che si sarà strutturato questo servizio, però comunque Global Service ha vinto un mega appalto, insomma è stato dato questa AVR Global Service praticamente verrà è tutto nel discorso Chattalabuca, le app nuove del comune, la Smart City. Praticamente diciamo che Global Service scandaglierà un po' tutte le reazioni dei social, più Chattalabuca, più mailing list al comune, sostanzialmente per un'efficienza maggiore, sempre sul discorso di tappare buche, di risolvere problemi di degrado cittadino immediati. E dice insomma che suddivideranno le priorità in giallo, rosso, verde, insomma come i codici del pronto soccorso, con attivazione anche nell'arco di 45 minuti nei casi più gravi, no? Quindi dice nell'ottica di in questo periodo in cui cascano rami dagli alberi, ci sono emergenze atmosferiche, giustamente ci si appoggia a Global Service, gli si dà un botto di soldi. Ora non riesco a trovare, mi stavo distraendo cercando quanti soldi sono stati dati per questo servizio che si attiverà, che è in divenire, che da novembre ci sarà anche una nuova app, insomma questo è un tutto... articolo, quello che ho beccato io è un articolo di anticipazione, insomma aspettiamoci grandi cose, cioè il mega sistemone di Nardella per gli algoritmi di Nardella, sì, per buche che fa le buche no, anzi le fa le buche e poi le ritappa anche subito entro 45 minuti se sono gravi tra l'altro. Quindi niente, per Controdario secondo me ci siamo abbastanza questa settimana. Dai, sentiamo il contributo. Si è attivato il Mondario, sentiamo il contenuto del 2014 in periodo di fatto del Nazareno, diciamo, insomma, di periodo di boni. Sì, esatto, adesso siamo un po' in una situazione esatto, si spinge sulla sicurezza, c'è insomma un po' di discorso con la Lega. Esatto. All'epoca insomma c'era ancora un po' forte, un po' di Forza Italia, insomma. Sentiamola un po' suo contributo. Forza Italia, come fa? Ricorcionatemelo. Adesso Forza Italia. No, si è bloccato. Si è Senti qua? Beh, ci ha pensato. Dai. Qua scazza. Qui sviolinata senza senso. Aspetta però il finale. Ma hai fatto poco. Ma non è un grazie. Pubblico in delirio. No, il fatto del Nazareno è... Vabbè, ciao, sì, Nardella e Suona Forte Italia. Nardella e Suona Forte Italia. Bellissimo, bellissimo. Va bene, niente. E in tutto ciò vorrei la sigla di uscita. Questa l'abbiamo sentita in entrata e in uscita. Insomma, vogliamo la sigla di uscita. Grazie, di Grippo. Della Nardellata. Grazie a tutti. Complimenti, è sempre una gioia sentire le gesta del pro de Nardella. Hai ascoltato Contro Dario. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Eccoci tornati qua, abbiamo chiuso il capitolo Nardellate per parlare di cose ben più serie. E cose ben più serie in compagnia di Olmo, compagno Olmo, e in compagnia di Antonio Fiorentino e Roberto Budini-Gattai, che sono qua con noi, autori per un'altra città. E abbiamo tante cose di cui parlare, in particolare della rete SET Sud Italia, Sud Europa di fronte alla turistificazione. Ma prima di arrivare a questo, volevamo accennare a quanto successo questa settimana. Per l'esattezza era giovedì, era il primo novembre, e quanto è successo nel centro di Firenze, diciamo nel tratto di strade iperbattute dai turisti tra Piazza Santo Spirito e Piazza dei Ciompi, perché per l'appunto quel giorno si è svolto il funerale della piazza. Il funerale della piazza è stato fatto da delle persone che sono partite da Piazza dei Ciompi, da Piazza Santo Spirito, con una grande lapide e vestiti a lutto. Hanno attraversato tutta la città per arrivare a deporre la lapide davanti al cancello chiuso, per l'appunto, della nuova Piazza dei Ciompi. È stato molto interessante. Sono stati lasciati anche dei bigliettini dove le persone potevano scrivere la loro idea, il loro pensiero riguardo alla piazza, che cos'è una piazza tendenzialmente, e ad attaccarlo alla cancellata. Questo ha creato un capannello di persone, una partecipazione attiva da parte di tante persone che passavano. Tante persone che passavano e che noi abbiamo anche intervistato. Ciao Olmo, ciao Antonio, sì, ciao. E Roberto, e qualcuno di voi era anche presente, fra l'altro, sì, giovedì. Certo. Impressioni? È stato sicuramente era stato un po' un banco di prova, no? Anche di come provare a comunicare certe dinamiche, no, alla città, attraverso forme ma anche originali, diciamo, no, di mettere in scena il dibattito cittadino, perché ovviamente su piazza, cioè ormai la narrazione appunto che sentiamo contro Dario e comunque insomma la narrazione dominante sulla città ha ormai preso tutte le possibili Ah, questa è l'intervista, sentiamola. Sentiamola, a questo punto è partita in sottofondo, non si sa come mai, ma sentiamocela. Potete dirci qualche pensiero a riguardo di quello che è successo, di come si è trasformata la piazza? Ma a me la piazza così piace, però non ci piace, penso a nessuno dei due, questo fatto che sia chiusa e che non sia utilizzata, perché prima bene o male era utilizzata e oggi è soltanto un elemento di passaggio. Penso che una piazza così debba essere vissuta, quindi no, debba essere anche accogliente per chi ci si vuole fermare, chi vuole fare due chiacchiere, quindi le panchine devono essere utilizzabili, la zona verde deve essere curata e la gente deve potersi trattenere in tranquillità, in calma. leggere un libro, non so, qualcosa del genere. C'è un disaccordo qua. No, io non sono d'accordo sul fatto che prima fosse utilizzata. Questa piazza non è mai stata utilizzata da quando l'ho vista io, perché era la sede del mercatino di Piazza dei Cioppi, che è un utilizzo, d'accordo, ma molto, come dire, finalizzato, certamente non all'incontro, non allo scambio, non a parlare, non a mettersi... Però cioè, essere frequentata perlomeno sì. Ma anche adesso è frequentata, perché cioè, se uno vuole frequentare, sicuramente che le panchine siano all'interno di un recinto, questo non è bello. Basterebbe allargare. Quindi diciamo più che frequentata è transitata. Transitata, esatto. Transitata, sì, transitata. Ma transitata per andare come, dall'altra parte, come tutte le piazze che ormai, soprattutto quelle in un ambito, come dire, del centro, perché o sono parcheggi o sono luoghi dove non c'è più nulla. Cioè, guardate allora Piazza del Carmine. Piazza del Carmine non è più nulla. Cioè, prima era un parcheggio e ora non è nulla, ma perché la piazza ormai non è più il luogo dell'incontro. E un tempo lo era invece. Vabbè, 1300, 1400. Vabbè, tornando un po' più avanti, diciamo, ma nella vostra infanzia. No, secondo me no. Cioè, giusto quando uno poteva essere d'estate, cioè, ma se l'aprano d'estate e è una bella serata, uno può darsi... Ma se no, non è che qui, cioè, è più il luogo del giardino, ma allora magari ci trovi la nonna, ci trovi il bambino e fa due corse, forse le può fare ancora, perché bene o male, voglio dire, lo spazio è anche più largo. Cioè, ma il luogo dell'incontro è la piazza in alcuni momenti, allora può essere Sant'Ambrogio, perché lì c'è la chiesa, ci sono alcune attività commerciali. Cioè, nel momento in cui la mattina, visto, si incontrano più persone, può darsi che qualcosa nasca, ma io non credo. Comunque, secondo me il difetto è che non si capisce lo scopo, cioè con quale scopo è stata costruita così questa piazza? Per dare un arredo urbano un pochino va più, bene, ma, insomma, più gradevole. Secondo me, decoroso, dico. Decoroso, ma nella città, decoroso. Me... Cioè, il decoro è decoro. Cioè, qui non c'è opere d'arte in questa piazza, quella è il rifacimento di una cosa che era da un'altra parte. I palazzi sono modesti, la piazza non è granché, cioè non è Carmine, Santo Spirito, Signoria. Tra parte, se il luogo dell'incontro poi, Santo Spirito, qual è? Quello dei bar, quello dei ristoranti. Ma il sagrato anche. No, il sagrato è sagrato, sono... perché strada, diciamo, devo... cioè, qualcosa sì. Che cioè, secondo me poca roba. Gli interventi in una città devono comunque rivelare un scopo. Cioè, perché si è fatto questo? La domanda però è: ma può essere uno scopo quello di tenere una piazza chiusa? No, assolutamente. Vorrei... No, questo qui è assolutamente una cosa ridicola, perché una panchina chiusa è veramente da foto curiosa. Cioè, che ci sta a fare quella panchina lì? È proprio il simbolo di qualcosa che è stato fatto senza uno scopo. Perché ci ha messo la panchina? Se era solo decoro, allora potevi evitare di mettere panchina. Il decoro è cioè, chiusa oggi, ma gli altri giorni è aperta. Cioè, se ci si viene di giorno di lavoro, aspetta, l'hanno chiusa oggi, perché magari non ci può essere forse sorveglianza, non ci può essere, però se tu ci passi di martedì mattina o di venerdì sera, pomeriggio... Comunque le panchine le avrei messe all'esterno. Cioè, l'ultima domanda è, ma sperate in altri interventi di questo tipo a Firenze? Io no. Ma no, cioè... spererei un qualcosa di più, cioè di una visione, di un progetto, cioè non una cosa episodica, voglio dire, si va avanti per cose episodiche, ma non c'è ormai una visione, un progetto, perché il progetto o è il mercantificio, cioè una qualunque piazza del centro storico, o è il deserto. Ecco, questa è un'intervista fatta a due persone, non di parte, non della nostra parte, due persone che si sono passate lì per caso e come tanti altri si sono interessati, poi le opinioni erano discordanti, abbiamo anche appunto incontrato persone con un'idea ben più netta della loro, dicendo no, questo è bello, questo... Però ecco, loro secondo me hanno tirato fuori tanti temi a noi cari, a partire appunto dal concetto di decoro, dal concetto di Firenze, di città ad immagini, da appunto dall'utilizzo che ne viene fatto, cioè per il commercio, la sorveglianza vanno a nominare, l'incontro che nelle piazze non c'è più. E cosa ne pensate, Antonio, Roberto? Ma senti, il primo era giovedì, mi sono trovato lì in piazza, ho seguito il corteo era la prima volta che frequentavo la piazza, mi sono ritrovato in piazza e mi ha disorientato profondamente, devo ammetterlo, perché secondo me da un punto di vista estetico è disastroso, cioè c'è un'estetica cimiteriale, l'ho chiamata io, ossia il giardinetto con la cancellata impraticabile. Ma forse sono condizionato dal particolare periodo in cui ci troviamo, i primi di novembre, però l'estetica è tristissima e che non invoglia ad alcun tipo di controllo, proprio a stare, a praticare, a stare nella piazza. Tra l'altro mancano anche le panchine, ci sono due panchine all'interno dei giardini, del giardino, del giardinetto, usiamo questa espressione, ma all'esterno bisogna stare in piedi, cioè non si riesce a poter scambiare delle parole comodamente seduti. Certo, è una piazza del transito, secondo me lasciare lì gli stand del mercatino delle Pulci, certo riorganizzati, non con... la situazione precedente, ma sarebbe stato di gran lunga migliore, un progetto migliore, perché c'erano, avevano le occasioni dell'incontro. Il mercatino delle Pulci è sempre stato un'occasione di grande incontro per la cittadinanza e per gli abitanti del quartiere, quindi io penso che sia stato davvero un grande flop da parte della giunta Nardella. Roberto, loro parlano dicono, ma in questi progetti non c'è uno scopo. Non ti sentiamo ora. Vediamo, prova. Eccolo. Proprio notato una frase che diceva lui: manca un progetto, e lei anche, qual è lo scopo? E questo, secondo me, è la critica più giusta che si possa fare. Cioè, manca un progetto per la piazza dei Cioppi, come manca per tutta la città. È drammatico, è una verità tremenda. Ti ripongo la domanda. Sì. Può essere uno scopo non avere uno scopo? No, assolutamente. Ora io devo citare una cosa che ho fatto. Abbiamo fatto con un amico un progetto per quella piazza, che doveva essere una proposta. Ho avuto 3 minuti per parlare a un'assemblea indetta dal sindaco. Era un'alternativa la nostra. Una piazza del centro storico richiede un concorso. Un centro storico come quello di Firenze, uno dei più importanti d'Italia e d'Europa, non lo puoi affidare a qualcuno che ti propone il progettino dei giardinetti, e questa persona per l'appunto risiede o allo studio nella piazza stessa. Per l'appunto. Allora, si è fatto un recinto che lui può vedere piacevolmente dalle sue finestre. È ridicolo, più volte in altre occasioni, gli aranci, la piazza degli arancini è diventata? Che cosa vuole essere il tema? Cioè io l'osservazione principale che devo fare è che qualsiasi mossa che viene fatta in questa città si porta periferia nel centro. È un progetto che è qualunque, potrebbe stare ovunque quel progetto. E quindi possiamo pensare in qualsiasi periferia che è stato trasferito in un luogo invece che ha una storia importante. Il riferimento è l'archeologia presente là. Quando hanno fatto i lavori si sono visti le fondamenta dell'isolato che è stato demolito nel 35-36, no? E lì era il tema, un'idea insomma per una piazza più interessante. Olmo, proprio riguardo agli aranci e le piante, sono bruttine quelle piante. Che piante sono? Che senso hanno? Ma ora io non ho fatto un approfondimento specifico, cioè del mirto, ci sono soprattutto delle piante che hanno una bassa manutenzione e comunque tutte non calpestabili, eccetera, quindi vanno a riempire, a fare che fioriscono, quindi fanno l'effetto comunque tra l'altro con l'accortezza che non era venuta prima in molte occasioni di mettere una controparte di verde contro la staccionata, onde evitare che i ciclisti possano legarci le biciclette, no? Come si faceva, certo, come si faceva prima, togliendo diciamo quel piccolo, ci sono quei cosi di tasso che tra l'altro fa delle bacche velenose, potremmo istigare i gruppi WhatsApp delle mamme che vanno lì. È vero. No, io... Tra l'altro, a proposito delle biciclette, io l'altro giorno, io vado sempre in bicicletta, ho provato a parcheggiare la bicicletta in piazza dei Ciompi e non c'è neanche una rastrelliera, non c'è niente, nulla. C'è una, ci sono credo una decina di posti sulla parte accanto alla loggia, andando verso il Duomo, però cioè, sono sempre pieni, e, insomma, però... Diciamo che questo disegno, al di là di, cioè, l'allestimento, come è stata infarcita la cosa, è vero che appunto è un non progetto, però rivela nello stesso tempo un progetto probabilmente inconscio da parte di chi comunque l'ha realizzato, no? Perché appunto al di là di quello che può essere poi trasformare questa disposizione in un'aiuola che sta al centro di una rotatoria di decors fuori, eccetera, tutti da costruirsi, che mi sembra abbastanza poi la direzione verso cui può andare, però questa costruzione di questo giardinetto, no, con i fiorellini, con due panchine, una cosa solo da guardare, cioè guardare ma non toccare, e questa, con questa recinzione anche imponente, perché dentro c'è una panchina e due rose, no, quindi c'è la spesa, immaginati, per in mezzo appunto a questo contesto, in realtà, dove c'è la moschea, ci sono un po' di realtà conflittuali, la speculazione che avanza, eccetera. Sembra effettivamente in realtà proprio il monumento, no, alla retorica del securitarismo, cioè sì, il comune, sì, che difende il decoro, che è rappresentato non dalla costruzione collettiva del prendersi cura dello spazio dove si vive, ma dall'imposizione di un il balconcino da signora, no, con i fiorellini, molto una realtà, cioè un giardinetto da nanetti, quindi cioè, da lì è nato un po' anche tutta questa storia della lapide, cioè è nato proprio dalle risposte delle persone, i signori e le signore che passavano anche di una certa età, no? Si fermavano e dicevano: ah, ma fare un cimitero in inglese, no? A forza di sentire questa cosa si è fatto un po' questo esperimento di trasformarlo nel giorno dei morti in effettivamente il cimitero a la piazza. Sì, sì, fra l'altro io parlando con persone ho sentito che era un'idea venuta a tanti, questa fidi, cioè chi parlava di croci, c'è chi parlava di lapidi, c'è chi parlava, però fondamentalmente questo. A margine di tutto questo va anche ricordato che è stato spostato, sì, il mercato delle pulci è stato spostato in modo piuttosto ingannevole, perché è stato messo temporaneamente in diciamo, è partito, il tutto era partito per smaltire l'amianto che stava nelle coperture del mercato. È stato spostato di fronte alla Nazione in Santa Verdiana e poi doveva tornare, ma a un certo punto gli hanno detto: ragazzi, sapete cosa, voi rimarrete stabili qui, vi costruiamo, un amico ci ha regalato un progetto, vi costruiamo un nuovo mercatino e via discorrendo. Sì, in realtà il concorso per la sistemazione di Largo Annigoni, il nuovo ingresso della facoltà di architettura, risale al 2005, quindi in realtà era da 10 anni chiaro quale sarebbe stato il destino, e questo progetto appunto è quello di Breschi risistemato. Di fatto, cioè, è quello verso cui evidentemente si andava nel momento in cui si è presa questa scusa, no, per demolire l'esistente, che è un po' quello che è stato fatto in varie occasioni, anche il mercato di San Lorenzo, no? Si utilizzò la questione del rifacimento della strada per spostare temporaneamente, è un po' la prassi, no? Questa specie di temporalità. E sicuramente dopodiché ci sono stati 2 anni in cui non è stato, cioè le percorsi di partecipazione, se così si possono definire, sono iniziati già dal 2006, appunto post concorso, certo. Quindi già questo, e sono stati abbastanza, anche insomma, intervistando, chiedendo un po' ai vari mercanti, è stato un lavoro per estenuante, per far perdere qualsiasi speranza a chi partecipava, e li ha portati più o meno alla posizione di va bene, basta che, Che si faccia. Ma poi fra l'altro, come il tema della partecipazione, come diceva Roberto, no? Tre minuti per esporre, poi non ti considerano ovviamente. Questo è un po' anche quello che è stato fatto, fra l'altro, per decidere che cosa fare di Piazza dei Ciompi. Venne fatta una petizione, fra virgolette, su social network, dicendo i cittadini hanno detto che ci vogliono un giardino, borda, cancellate, borda, e tutto quello che abbiamo visto. Diciamo, volevo spostare un po' il focus da Piazza dei Ciompi, che è stato un po' l'introduzione a un argomento che lo riguarda, che riguarda questo caso, che è come già detto nelle puntate precedenti, la rete set Sud Europa di fronte alla turistificazione. Rete set che si è riunita a Napoli giusto 2 settimane fa, se non mi sbaglio. Roberto e Antonio erano lì. Ci volete spiegare di che cosa si tratta intanto? Sì, la rete set nasce in Spagna lo scorso anno. Le città spagnole hanno un po' aperto la strada a questo tipo di intervento delle città e di denuncia dei processi di turistificazione e di distruzione proprio delle città turistiche. Venezia ha fatto da apripista qui in Italia, subito si è collegata Firenze e c'è stato il primo incontro di organizzazione, di sistematizzazione di questa rete proprio una decina di giorni fa a Napoli. La cosa straordinaria è che subito la rete si è estesa ad una decina di altre città. Allora sono intervenute, hanno partecipato Rimini, Bologna, Genova, Roma, Napoli stessa, a parte Firenze, Venezia, appunto per confermare una tendenza che riguarda un po' tutte le città, gran parte delle città italiane, cioè quella della deriva turistica. Deriva turistica intesa non tanto nel senso folcloristico, ci sono tanti turisti, cioè non è soltanto questo. Il problema è che si sta affermando un'industria turistica, un'industria capitalistica che stravolge e sconvolge direttamente le città, i propri ambienti di vita e le relazioni tra le persone. Addirittura c'è Marco D'Eramo che parla di urbanicidio, cioè di morte delle città. Forse Firenze non è arrivata a tal punto anche perché ci sono delle capacità reattive, come abbiamo visto con il corteo di Piazza dei Ciompi, con tutta una serie di comitati attivi in città e nell'area metropolitana. Però è un grosso problema che porta alla distruzione del concetto stesso del vivere in comune in città. E i residenti sono dispersi, sono isolati e quando possono fuggono da Firenze. Questo è il nucleo centrale del discorso. E poi parallelamente c'è quello dell'esplosione della rendita immobiliare, cioè gli edifici immobili che hanno una valorizzazione enorme sono utilizzati come investimenti da parte di gruppi internazionali e quindi il mercato immobiliare ne risente, ma di questo poi avremo modo di parlarne sicuramente. Sì, sicuramente, anche perché io mi sono scaricato il manifesto della rete set e magari possiamo parlarne insieme se volete, Roberto. Allora, ecco, sono riuscito a staccare. No, dicevo prego. No, penso che sarebbe bene introdurre i punti fondamentali. Infatti. Intanto la sigla SET significa Sud Europa di fronte alla turistificazione, tanto per chiarire. Esatto, i punti principali del manifesto sono, li scorriamo insieme e magari li commentiamo anche. Il primo e il più importante ed esteso è sicuramente l'aumento della precarizzazione del diritto all'alloggio, cosa che è evidente, l'abbiamo anche affrontata fra l'altro proprio in questa regia a Fuoco alle Polveri, abbiamo una puntata sulla questione di Via dei Fefi. Era Fuoco alle Polveri numero 49, è venuto Giuseppe, l'abitante di Via dei Fefi, che poi ha fatto il ricorso e ci ha spiegato abbastanza nel dettaglio tutti i meccanismi. Avete altri esempi da portare riguardo a questo punto? Ma il fatto è che le abitazioni, a parte quelle che sono popolari, come quelle di Via dei Pepi, cioè appartengono al patrimonio pubblico, anche le abitazioni normali sono state ormai assunte, sottratte dai gruppi che affittano affittacamere, insomma. E sono gruppi che possiedono centinaia di appartamenti ormai in città. È impressionante. È comunque venuto anche in un servizio pubblico della Gabbanelli con dei dati, certo. Migliaia di alloggi, migliaia, che fanno capo a due gruppi. Airbnb e Homelydays, se non mi sbaglio. No, Airbnb è la parte industriale, diciamo, è quella dell'impresa. No, la proprietà proprio. Giusto, la proprietà delle... C'è una delle... monopolizzazione da parte di due gruppi, non ricordo i nomi, però so a chi fanno capo più o meno, specialmente uno. A Ferragamo? Sì. Esatto, no, abbiamo nominato prima Wanda Ferragamo, Wanda, per caso... che non c'è più. Che non c'è più, però Ferragamo torna perché è uno dei grandi proprietari immobiliari, sì. Monopolisti dell'immobile a Firenze, che fra l'altro lo... Poi tutto il suo buona parte del suo patrimonio è disponibile su Airbnb. Sì, oltre a, appunto, in proprietà diretta, comunque ci sono il gioco di Airbnb, no? Riesce a far entrare, diciamo, dalla finestra le grosse compagnie, perché comunque riesce a far sì che anche attraverso l'affitto e coprendo, no, attraverso comunque Airbnb i soldi vanno a passare in Irlanda e comunque, certo, sono coperti, i dati rimangono nella Silicon Valley e non vengono dati neanche ai governi, appunto, europei, che su questo stanno cercando, insomma, di inutilmente, però, insomma, di fare un attimo di battaglia. Anzi, sì, i governi per il nero a parte il nostro, perché io tutta questa questione, a un certo punto mi ricordo, prima dell'estate, Nardella la tirò fuori, è difficile gestire, bla bla, sai che si fa? Vai, si aumenta la tassa sul pernottamento. Hanno fatto un accordo col comune, il governo centrale. Esatto. Lo sapete, che dei 3 euro. 3 euro, e portano alle casse di Firenze circa, sì, 6-7 milioni di euro, ecco, l'anno. Dice molte cose. Sì. Molto interessante la tesi di Stefano Pihascia, che è un ricercatore dell'Università di Siena. Lui ha fatto tutta una ricerca su Airbnb nelle principali città italiane, ma a Firenze dice praticamente il 20% delle case, degli immobili nel centro di Firenze è destinato a Airbnb. Sì, è vero. C'è anche il recente rapporto di Tecnocasa, che parla di addirittura di 22.000 abitazioni utilizzate per le locazioni turistiche di solo Airbnb, più tante altre poi per le locazioni turistiche private, eccetera. Insomma, siamo di fronte, cioè ci sono due aspetti, secondo me. Da un lato lo svuotamento, lo dicevo prima, cioè la città si svuota, cioè gli abitanti, residenti, relazioni. Il centro storico, come diceva Roberto, è la vera periferia, perché le relazioni assenti. Certo. I fiorentini in centro, gli abitanti che vadano in centro, mi sembra molto difficile, ma non soltanto, quindi proprio la pratica delle aree centrali, cioè una città che si svuota, che si snatura completamente da un lato, e dall'altro lato però viene riempi i vuoti costituiti dalla diaspora degli abitanti, residenti, poveracci, eccetera, i vuoti sono riempiti dai potenti del mattone, dai potenti della finanza. Cioè sta accadendo questo fatto qui: da un lato si svuota di coloro che vivono in comune questo spazio urbano, e dall'altro lato ci sono i nuovi padroni della città. I nuovi padroni della città che però, ecco, vorrei precisare questo, trovano terreno fertile in una assenza totale di pianificazione e di un'assenza totale delle politiche urbane. Abbiamo detto prima, manca il progetto delle piazze, manca un progetto complessivo di intervento. È vero, questo è uno dei grandi disastri. Cioè non possiamo confrontarci con un'idea di città, non c'è una politica, o perlomeno c'è una politica sotterranea che frantuma la città in tanti pezzettini. Gli interventi avvengono immobile per immobile, piazza per piazza, per cui si perde il controllo. La visione complessiva, e francamente siamo anche un po' spiazzati per quanto riguarda poi il sì. Ilaria Agostini parla di morte dell'urbanistica. Sì, ormai abbiamo anche qui un altro c'è la morte dell'urbanistica, ma intesa come piano per poter affrontare in maniera complessa, perché è chiaro si parla di una realtà complessa, un sistema urbano. Invece viene affidato, c'è una deregulation totale, viene affidato agli interventi predatori, io li chiamo in questo modo, di coloro che hanno le grandi imprese immobiliari, oppure dei padroni del mattone. Le politiche urbane in realtà non fanno altro che favorire, questo bisogna dirlo. Nardella diceva, abbiamo sentito prima una sua dichiarazione, dice: questa città merita rispetto. Ma io mi chiedo, il sindaco Nardella, la giunta, questo ceto politico, questo ceto economico, ha rispetto di questa città? Io ti rispondo di no. Cioè, se lo chiede a me, sicuramente ti rispondo di no. Però è facile. Se si vuole vedere l'unità del progetto urbano, probabilmente bisogna vedere gli indici dei valori immobiliari. Cioè, per esempio, su Sant'Ambrogio, no? Sembra che sia una pioggia di interventi miopi e che non si vedano l'uno con l'altro, però ricostruendo il quadro e vedendo le tendenze del mercato è chiaro che c'è un intervento unitario. Il problema è che è l'intervento unitario della speculazione, no? Quella che si va a costruire non... cioè, l'urbanistica nel neoliberismo ha perso quel tentativo di dirigere quello che era il discorso su un bene comunque collettivo che era la città, e di poter in qualche modo tenere a freno quelle che erano appunto il fatto che i potenti avessero la gestione totale del territorio. Ora, io per mia posizione penso che l'urbanistica sia stata anche poi quello che l'ha fatta nascere quella situazione, però sicuramente in questo momento si è trasformata semplicemente in uno strumento per mettere i bastoni fra le ruote tendenzialmente ai piccoli, non ai grandi, no? Cioè, sono numerosi gli esempi, anche per esempio, no? Norme di tutela, qui magari si nominerà, cioè, vengono fatti degli interventi dai miliardari russi o così, che sono fuori norma, dopodiché pagano la multa, fine del e via, tutto a storia, norma, cioè. Esatto. Andando un po' avanti sul manifesto del SET, si parla di massificazione delle strade e delle piazze. È evidente, basta andare in Piazza del Duomo, in Piazza della Signoria, Firenze, secondo chi fa questo lavoro, chi conta le persone che arrivano a Firenze, ha contato nel 2017 10 milioni di pernotti, il che vuol dire che vengono escluse tutte le persone che visitano per un giorno solo, quindi i pullman e via discorrendo, e con questo comporta anche la saturazione delle reti del trasporto pubblico. Vediamo bene in che condizione è il trasporto pubblico. Potremmo anche citare gli esempi di trasporto pubblico per arrivare al De Mol, piuttosto Firenze, esatto, sì. Ma non lo faremo, almeno non lo faremo ora, magari dopo un pezzo per spezzare un po' la tensione creata dalla morte dell'urbanistica. Eccoci, torniamo in regia. Torniamo in regia sempre sull'argomento set e turistificazione della nostra città. Firenze, fortissima turistificazione negli ultimi pochi anni, ma in generale è un percorso che parte ormai da qualche decennio, da almeno 3 decenni. E stavamo leggendo il manifesto del SET, parlavamo della saturazione delle reti di trasporto, però abbiamo anche un altro punto, l'alta dipendenza dell'economia locale dal settore turistico, con tendenza alla monocultura. Tendenza alla monocultura, io in questo mi è venuto subito in mente la parola estrattivismo. Se devo essere sincero, perché di estrattivismo si parla non così spesso in ambienti urbani, si parla molto spesso in ambienti rurali, soprattutto non del nostro continente, ma del continente sudamericano, ma nel nostro caso si può parlare proprio di estrattivismo. Poi magari ci torniamo, la precarizzazione delle condizioni lavorative e, altro punto, alti tassi di inquinamento a causa di aerei, corriere, pullman, nave da crociera nel caso di città come Venezia, e questo comporta uno smisurato ampliamento costante delle infrastrutture, e a Firenze abbiamo esempi limpidissimi riguardo a questo, per il caso Notav, per il caso dell'aeroporto che stanno cercando di fare la nuova pista, per il caso anche di altre grandi opere, può essere l'inceneritore tanto agognato dal nostro amico Nardella, che poi non può vedere i sacchetti in mezzo di strada. Roberto. Sì, parto dall'estrattivismo. Prego. Un tempo si chiamava rendita. La rendita poteva essere parassitaria più o meno, no? Oppure una rendita semplicemente di posizione. Questa fase capitalistico-finanziaria così dominante, sproporzionata rispetto a, diciamo, alla produzione di merci, cioè la produzione attraverso di ricchezza attraverso il denaro, ha nella città il suo centro. Questo deve essere detto, cioè la città è la cava di grandissima parte degli investimenti finanziari, e prende la forma di smart city, che è una forma tossica di narrazione. Il quarto punto trattato a Napoli, aggiunto all'ultimo, è proprio la narrazione tossica, cioè quella che propone dei falsi, propone dei simulacri. La smart city è un simulacro, cioè è la città efficiente, intelligente, accogliente, tutto quanto. E il prototipo è la città di Amazon, no? Quella proposta, chi è che mi garantisce infrastrutture, efficienza a tutti i livelli, ed è il mito di Nardella e dei suoi, soprattutto, che si vanta fra l'altro di essere la seconda, sì, città smart d'Italia, la seconda smart, e hanno messo anche l'assessorato alla smart city, Bettarini, se non mi sbaglio. Bettarini, l'ho scritto anche questo, col quale ho avuto anche degli scambi così in assemblee pubbliche amichevoli, piuttosto amichevoli. Immagino. Beh, da ridere. Tra l'altro c'è un'anima autoritaria che viene subito a galla in queste persone. Dico, se ci sono dei problemi, decidiamo, perché noi abbiamo i voti, decidiamo noi, e questo sul tema della partecipazione. No, vorrei dire una cosa. La narrazione tossica, eravamo. La narrazione tossica, sì. Cioè, ti raccontano che la città deve essere efficiente. Ora, questa immagine dell'efficienza cavalca delle immagini, delle idee, no? Di ammodernamento. La città deve essere ammodernata in molti casi. E allora le infrastrutture che portino i turisti, e si deve arrivare a 4 milioni di turisti che arrivano via aerea e via di seguito. Se non si fa il doppio tunnel si rimane tagliati fuori. Tutte cose che non sono vere, cioè è ideologia pura, ideologia del modernismo fatta a casaccio. Cioè di fatto questa città viene massacrata. Le linee tranviarie, insomma, non sapevano se approvarle o no a un certo momento, governo Renzi, insomma, amministrazione Renzi. E poi decido via, si approvano all'ultimo momento. Io suggerii ai nostri consiglieri, che erano Ornella, De Zordo e Tommaso Grassi, di chiedere una sospensiva, una dilazione per ristudiare i progetti. Si è visto che cosa è successo in città. Non so se ci si rende conto di come questa città è stata rovinata da queste due linee. Ora, non appagati da questo scempio della linea 3 e della linea 2, sarà ancora peggiore. Non stanno in piedi queste linee. Avevo guardato i progetti. Bene, insistono e la vogliono portare a San Marco, da Piazza Libertà. Cioè, veramente la distruzione di una città. Così, inconsapevolmente, sono sempre stato favorevole al tram a Firenze. Da 30 anni ne ho parlato con un esperto, insomma, quando era attivo nella regione, insomma, si è fatto un sacco di ipotesi molto più leggere, legate alla forma, alla realtà, insomma, urbanistica di questa città. Ma la cosa principale era la linea, il metrotreno nella linea ferroviaria. Certo. Sì, sì. Erano 7 fermate previste perfino dalla ferrovia come compenso del tunnel, annullate da Renzi. Vabbè, tutto questo. Io poi un'ultima cosa, prima di parlare delle infrastrutture, forse voi e Antonio, c'è una questione culturale, insomma, nel turismo, che si lega alla questione scolastica. Voi sapete in che stato è la scuola italiana, no? Con la buona scuola, che è la scuola ordinata dai padroni del vapore d'Europa, che sono trasmissione delle multinazionali. Cioè è la scuola che deve uniformare, deve creare dei soldatini obbedienti. Allora, la stessa città è ridotta a puro simulacro. Cioè la cultura scolastica, eccetera, è un simulacro, non è cultura, non si produce, ma si vive, si espone al massimo, si espone e diventa un'altra cosa. Tutti i provvedimenti urbanistici sono volti a quello, la stessa trasformazione degli edifici antichi, storici, eccetera, e non fanno vedere più la città com'era, ma una specie di quinta. Verissimo, verissimo. Possiamo portare l'esempio, il caso dell'ex tribunale, ad esempio, che è stato acquistato da... è stato dato in concessione. È stato dato in concessione per delle esposizioni di arte contemporanea, che però non sono assolutamente prodotte, non vi è una scuola di produzione di arte a Firenze che poi viene esposta. È tutta arte contemporanea, sì, ma importata. L'esempio di quella ultra scultura di cera piazzata in mezzo davanti a Palazzo Vecchio, che anche quella, cioè, e non poi ha nessun significato. Vabbè. Comunque, dicevi le infrastrutture, ne abbiamo altre da citare, perché sicuramente l'aeroporto è un punto cardine della questione. Ma sì, in effetti è al centro dell'attenzione di questi ultimi tempi, anche perché siamo in attesa della conferenza dei servizi che si terrà a Roma nei prossimi giorni. Forse credo sia stata anche rinviata di qualche settimana su richiesta di ENAC. Ora, al di là delle singole cose, però in realtà nelle città turistiche, lo abbiamo potuto verificare anche a Napoli parlando con i rappresentanti di Bergamo, di Napoli, eccetera, e un altro aspetto, quello della pesante infrastrutturazione, ossia grandi navi a Venezia, allora possiamo dire anche grandi aerei a Firenze, ossia è una catena di montaggio delle persone, dei turisti, che viene messa, viene attuata, creando poi dei problemi disastrosi. Qual è il grosso problema dell'aeroporto? L'aeroporto distrugge un ecosistema già pesantemente compromesso, quello della piana Firenze-Prato Pistoia, nell'immediato della piana metropolitana, della piana fiorentina. Lo distrugge perché lì c'è un'ipotesi di parco agricolo della piana, cioè un'ipotesi di rilancio delle attività partendo da delle ricchezze, da delle qualità intrinseche del territorio. Si sovrappone una striscia cementificata che porterà i passeggeri dagli attuali 2 milioni ai 4 milioni e mezzo previsti, i voli previsti sono anche 50.000 l'anno. Allora siamo di fronte ad interventi disastrosi, perché è come se abbiamo potuto vedere, abbiamo potuto sentire il numero dei turisti in città è davvero enorme. L'indagine Vodafone dello scorso anno parlava di 14 milioni di pernottamenti, 10 milioni sono quelli là individuati dal centro studi turistici della città. Si parla di 14 milioni di pernottamenti per arrivare sino a 18 milioni di presenze. Allora, un intervento di questo tipo qui, da un lato compromette un sistema ecologico che, sul quale fondare il rilancio delle attività della città e dell'intera area metropolitana. Dall'altro lato però appesantisce, sovraccarica ancora di più proprio fisicamente il numero dei turisti sulla città. Un'ultima considerazione, per ottenere questa cosa qui, le politiche sono piuttosto spregiudicate, ossia i piani urbanistici, il piano di Castello, il piano per la città della Viola, poi abbiamo anche il piano, per esempio, lo abbiamo illustrato, per lo svincolo di Peretola, che strozza in realtà tutto l'abitato di Peretola. Allora, l'approvazione dei piani è estremamente spregiudicata e, per esempio, lo stesso il piano urbanistico di Castello, che dovrebbe poi consentire anche, se approvato, io spero che non sia approvato, dovrebbe consentire la realizzazione dell'aeroporto e di tutte le altre previsioni, è un piano attuativo che però non ha vuoto, è un piano finzione, perché all'interno non sono indicate delle attuazioni, cioè le attuazioni sono subordinate alla realizzazione dell'aeroporto, alla dismissione dell'attuale aeroporto, all'interramento di un elettrodotto, cioè voglio dire le previsioni urbanistiche sono farlocche, sono inconsistenti, però serve quest'atto per poi poter realizzare tutta la pesante infrastrutturazione dell'area. E quindi siamo sempre di fronte ad una gestione del territorio e del sistema urbano estremamente critica. E fra l'altro tutto questo discorso legato all'infrastrutturizzazione, alla crescita delle infrastrutture è legato e contrasta, no, con la retorica anche delle stesse amministrazioni che dicono di lavorare per un turismo di qualità, quando in realtà tutte queste infrastrutture servono semplicemente a aumentare il numero di turisti di passaggio. Cioè, lo vediamo appunto, il caso più eclatante sicuramente è Venezia. Ora noi con il collettivo ARC siamo stati questo fine settimana a Venezia a prendere appunto contatto con le varie realtà. Ecco, raccontaci le analogie. Ci sono molte analogie, questa qui sul tema infrastrutturale è proprio, sembra il discorso, la prima parte del discorso si può sovrapporre, basta togliere il nome, cioè l'ecosistema della laguna, un ecosistema estremamente complesso e un ecosistema che il governo della Serenissima per mille anni ha mantenuto in equilibrio, ma non per il fato, cioè c'erano politiche e si lavorava per mantenere questo ecosistema fragile e far sì che non andasse a scomparire. Dal momento in cui si fa Marghera, si inizia a portare il porto, si va ad aumentare il pescaggio e quindi si va a scavare, la laguna è passata da 1,5 metri di profondità media a 2,5 metri, e questo fa sì che nelle previsioni entro 50 anni, se non vengono presi provvedimenti, la laguna non sarà più laguna, cioè diventerà mare, al di là di tutto quello che... E in tutto questo si inserisce il discorso delle grandi navi, che di fatto hanno, cioè di cui appunto tutti hanno un'immagine, no, abbastanza chiara, e su cui esiste un forte comitato no grandi navi, che come tutti sanno passano insomma lì accanto delle cose che il Titanic in confronto è un guscio di noce, cioè cose da 140.000 tonnellate di stazza che passano. Che muovono tutti i fondali. Ora appunto ci sono dei punti in cui si vede la quantità d'acqua mossa è ovviamente pari al peso della nave, no? Certo. E che si muove prima spostandosi in avanti e poi con la parte. Quindi immaginiamoci quando passano nel canale di San Marco, ma anche su tutto l'ecosistema circostante. E tutto questo, oltre a appunto sforare, essendo non in gestione del comune, per esempio, non rispettano le polveri sottili, no? Essendo il canale della Giudecca sotto il controllo dello Stato, uno può mettere le limitazioni per il PM10, poi arriva una nave del genere, cioè, è equivalente a come se passasse praticamente Sesto di fianco, certo, sopra la città. Oltre che anche lì il fatto che magari una grande nave ti scarica 4.000 persone in, esatto, mezz'ora, in una città che viene completamente invasa da persone. L'ultimo punto del manifesto del 7 parla della banalizzazione dell'ambiente urbano e naturale e la trasformazione in parco tematico, cosa ben evidente sia a Firenze che a Venezia, forse più a Venezia per le caratteristiche che ha. Guarda, in realtà su certe Venezia ha la caratteristica di ha un livello di complessità del tessuto storico che soltanto Google Maps sta riuscendo a scalfire. Nel senso che Venezia è un labirinto, tutti chi c'è stato insomma lo sa, non c'è, e Venezia si autodifende, no? E ha sempre ha avuto delle enclave un po' delle parti nascoste irraggiungibili dal turista. Tra l'altro ha molto più grande a livello di costruito, ha un tessuto di grana molto più fine, quindi molto più percorsi, quindi in realtà questo l'aveva difeso fino ad adesso dal fatto che i turisti si uscissero dalla loro carreggiata. Un po', certo, succedeva anche a Firenze, però lì è molto più marcato sicuramente. Sì, anche sul discorso della apparentemente appunto sembra, no, che Venezia sia più standard, è più un'immagine, cioè il brand Venezia è molto più chiaro, okay, ma andando ad applicare nella realtà è abbastanza diverso, perché appunto come constatavamo, però quantomeno a Firenze non sono stati ancora messi dei tornelli. Sì, i tornelli ci sono, ma in realtà non funzionano, sono stati sbarbati. Sì, si è stata subito un'azione e Ne abbiamo parlato, fra l'altro, sì. Tra l'altro adesso Venezia sta inseguendo Firenze su una serie di cose. Per esempio, si stanno facendo passare modifiche al regolamento edilizio, per cui si potrà anche lì andare a intervenire sugli edifici storici, come si è già stato approvato a Firenze. Ecco, questa fra l'altro è una specifica caratteristica, prima parlavamo di estrattivismo, è una delle caratteristiche dell'estrattivismo, è proprio questa, quella di attuare dei cambiamenti da un punto di vista normativo per far sì che quelle risorse siano meglio sfruttabili da società che siano globali tendenzialmente. Io mi sono andato a cercare la definizione di estrattivismo e appunto si parla di soggetti globali, che a Firenze direi che ci sono, visto che chi compra gli immobili sono sì soggetti globali, sono fondi di investimento soprattutto tedeschi, ho avuto modo di leggere, e olandesi, ok. Abbiamo poi una visione sviluppista, si parla di sviluppismo proprio, quindi uno sviluppo universalizzabile dove non c'è salvezza al di fuori di una vigorosa crescita economica. Militarizzazione, abbiamo visto che è ben presente anche a Firenze, perché questo sta succedendo, e modifiche normative, questa fra l'altro della modifica del regolamento urbanistico ne ha parlato abbondantemente Ilaria Agostini anche in una trasmissione di Radio Wombat, era passaggio a Nord-Ovest 39, però fondamentalmente si passa dal restauro. Sì, si passa dal restauro alla foglia di fico della ristrutturazione edilizia con delle limitazioni, però la ristrutturazione edilizia è cosa ben diversa dal restauro. Sino all'approvazione di questa variante, sul patrimonio storico, cioè sul 42% del patrimonio immobiliare del comune di Firenze, si poteva intervenire anche solo con il restauro conservativo, lo dice anche il termine stesso, ossia conservando gli aspetti architettonici ed edilizie funzionali degli immobili. Tra l'altro a Firenze c'era anche una gestione molto permissiva del restauro conservativo, perché erano consentiti anche i cambiamenti di destinazione d'uso, ciò che altrove invece non era consentito. Ora, sulla base delle vicende della lottizzazione, a questo punto si può parlare di Palazzo Tornabuoni, in centro in via Tornabuoni, è stata colto questo pretesto per poter allargare le maglie dell'intervento. Cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile trasformare profondamente un immobile storico. Ma perché si dovrebbe fare questo? Per aumentare e migliorare l'offerta residenziale della città? Ah, questo è una pura illusione, quello che la giunta sbandiera a destra e a sinistra. È il caso delle manifatture tabacchi? Sì, giusto? Il caso della manifattura tabacchi, ma anche del tessuto minuto, però storico, della città stessa, per poter poi rendere più appetibile sul piano del mercato immobiliare turistico, delle locazioni turistiche, questi immobili che sono trasformati, ristrutturati a immagine e somiglianza delle richieste del mercato turistico. Per cui c'è una città che si trasforma, non è in realtà immobile questa città, si trasforma ma sulla misura degli interessi della proprietà, della grande proprietà immobiliare finanziaria. Roberto? Ad aggiungere? Aspetta, non ti sentiamo? No, ancora. Ci sono. Aspetta, perché non ti sentiamo ancora, sai? Hai piccoli problemi tecnici. Prova. Ora funziona. Quando si è parlato della variante al regolamento urbanistico, questa declassificazione degli interventi verso il basso, mi è venuto in mente un paragone. Cioè questa città, il centro storico, l'architettura della città è un testo che si vuol mantenere come si mantengono i testi della Divina Commedia, i testi sacri, il Petrarca, il Boccaccio, i Promessi Sposi. Non è che si fanno dei fumetti di questi testi, no? Ritorna alla questione del simulacro. La trasformazione che avverrebbe della città invece diventa un fumetto. E allora, malgrado che dice, non è una Disneyland questa città, ma di fatto fanno di tutto per farla diventare. Allora questo è un massacro, veramente, cioè è un atteggiamento distruttivo, perché si perdono delle cose. Io ho fatto dei restauri importanti nella mia vita di architetto e so che cos'è l'adeguamento, l'adeguamento dei servizi e tutto questo per rendere funzionale a esigenze cambiate, eccetera. Ma si mantiene la struttura. Se te conosci profondamente l'architettura attraverso una ricerca approfondita insomma, che guardi tutti gli elementi, non è che stravolgi questa architettura, e anzi scopri delle valenze che c'ha l'architettura antica che magari non ti immagini. No, invece l'intervento necessario all'estrazione di profitto passa sopra a tutto e diventa ristrutturazione, cioè un'altra cosa. Si può cambiare in tutto o in parte, ma in tutto una facciata, non so se ci si rende conto, diventano veramente delle quinte assurde, finte, inutili, non c'è più la città. È come un po', ma secondo me è peggio, delle città ricostruite in Germania dopo i bombardamenti. Insomma, lì sono stati costretti a mantenere un'immagine a cui tutto il popolo tedesco e forse oltre, insomma, anche noi si poteva essere affezionati a quell'architettura gotica minuta. Probabilmente diventa più falso di del falso, no? Sì, tra l'altro questo si inserisce, come questi passaggi sono molto utili al comune nell'ottica di disfarsi dei famosi cosiddetti grandi contenitori, no? Che servono a cui grandi investitori vogliono portare grandi modifiche per poter realizzare cose che non hanno nulla a che vedere con quello che è la città, quello che abbiamo visto, insomma, che sta avvenendo, insomma, anche qua dentro la quella che è per esempio Sant'Orsola. Sant'Orsola, ci so, facciamo che si manda un pezzo, poi si finisce l'intervista dopo. Perché su Sant'Orsola vorrei anche dirvi una cosa. Sì. Grande. Dai, regista. Anche le foche bevono Radio Wombat. torniamo in regia, sempre con l'urbanistica come tema. Dobbiamo finire questo grandissimo discorso, poi non finirebbe, potremmo non finire mai, però poi ci dobbiamo dare dei limiti. E, Olmo. Sì, si stava parlando degli interventi sul costruito storico, e appunto da una parte c'è quello che è la cecità totale davanti al valore intrinseco di questo appunto libro di cui si parlava, e di tutto quello che contiene dei modi di vita, no? che sottende, nel senso che chi apprezza e vive nel centro storico lo sa, il centro storico dà modo di vivere in un modo, in una maniera diversa, no? Legata al valore d'uso, insomma. E appunto abbiamo visto che lo sfruttamento turistico economico non è interessato a mantenere questo, ma solo un'immagine, no? Vendibile. E per ricollegare il discorso a quello che si è fatto a Venezia questo fine settimana, siamo andati a incontrare e a un po' rinnovare quella che è un contatto tra Firenze e Venezia di lunga data, sul discorso invece dell'autorecupero legato agli edifici nei centri storici e comunque edifici storici in generale. Un percorso che vedeva appunto prima Firenze aver dato anche il là, no, a quello che è successo a Venezia, che arrivando poi alla legge regionale sull'autorecupero, agli interventi che stanno andando avanti al Cecco Rivolta, al Melograno, attraverso appunto questa pratica, e a quello che poi, andando a vedere quello che hanno portato avanti i veneziani su questa questione, su cui sono stati molto bravi, mostrando come appunto un lavoro dal basso, effettivamente lavorando su edifici che sono stati costruiti in una logica di grande disponibilità di manodopera e poca disponibilità di materiali e di soldi anche, e che diventano appunto l'ostacolo, no? Poi per l'intervento dall'alto, da parte, in una logica speculativa, in un'ottica in cui adesso la manodopera è cara e invece sono i materiali sono disponibili, quello che si interessa è fare un lavoro rapidamente perché gli interessi finanziari sono alti, e quindi va a demolire tutto. Invece questa cosa sarebbe proprio naturalmente dalla parte di chi ha grande disponibilità di tempo, cioè di solito chi ha pochi soldi, magari disoccupati, chi avrebbe bisogno di una casa popolare, e che può poi andare a portare avanti queste pratiche, per cui siamo lì oltre il centinaio di edifici proprietà dell'ATER. Centinaio? Sono stati nel tempo, da inizio anni 2000, in particolare dal 2008, occupati dall'ASC, che è l'Agenzia Sociale per la Casa di Venezia Mestre Marghera, e autorecuperati con pratiche dal basso, resi agibili e riassegnati alla popolazione. Per l'ATER i grandi costi di manutenzione in laguna ovviamente vengono poi dall'altra parte, trovano una scarsità di risorse, no? Che vengono date a queste sul diritto alla casa, e quindi ci sono una grandissima quantità di edifici abbandonati che vengono svenduti ovviamente, e invece questa pratica permette sia di tutelare questo patrimonio e sia di garantire ancora il diritto appunto di alla casa nella città storica. Tra l'altro questo genera tutto quello che genera poi il lavoro collettivo, ed è riuscito a inserirsi in maniera molto intelligente all'interno delle dinamiche anche di turistiche della città, nel senso, per esempio la Biennale, no? Che è un po' quella che loro chiamano la più grossa fabbrica all'interno della Venezia storica, che viene ogni anno allestita e produce ogni anno grandissime quantità di scarti, di materiali inquinanti che vengono poi smaltiti in discarica. Loro sono riusciti a fare un lavoro per inserirsi creando questa cosa di Re Biennale, riuscendo quindi a recuperare i materiali e poi piano piano andando in crescendo fino a trovare alcuni progettisti che sono andati a realizzare dei padiglioni assieme a loro, coprogettandoli con loro, utilizzando totalmente materiali che potevano poi essere applicati, insomma, in questi interventi. Quindi comunque il centro storico ha una, cioè, avendo una base, il tessuto popolare, essendo costruite con logiche appunto legate a queste dinamiche economiche eccetera, e di capacità manuale, al modo di vivere appunto all'interno di questi spazi, hanno una forza di resistenza intrinseca, no? Che appunto si diventa ostacolo e che appunto in questo momento queste politiche si mostrano così distruttive proprio perché sono esattamente al lato opposto, no? della scala dei valori, ecco. Vero. E questa è una delle pratiche, però immagino che Seth porti avanti, cioè, voglia stimolare, ecco, all'utilizzo di questa e di altre pratiche. Ne è un esempio, non un esempio, comunque il fatto che si stia internazionalizzando di fatto questo fronte contro la turistificazione ne è un simbolo. Sì, certo. È importante che queste realtà comincino a collaborare, comincino a ad attuare questa resistenza attiva sia sui propri territori, ma anche una resistenza attiva incrociata tra territori, una collaborazione, una cooperazione anche a livello internazionale, perché sono venute fuori alcune proposte di poter anche aprire una vertenza con la Commissione europea per la disciplina di alcune pratiche distorsive sull'attuazione del turismo, e vertenze anche di SET Italia. Allora, a Napoli ci siamo lasciati con un impegno, cioè quello di costruire il prossimo appuntamento a Firenze, si è detto fine gennaio, primi di febbraio, su delle tematiche specifiche che poi sono comuni a tutte le realtà che abbiamo incontrato a Napoli. Beh, a me viene da dire che un punto nodale, uno dei punti nodali è quello dell'infrastrutturazione pesante della città, ma dell'area metropolitana, perché tiene assieme sia il centro urbano che il contesto metropolitano. Poi, ora, ovviamente si tratta di costruire questo appuntamento. A Firenze ci sono tante realtà, tante vertenze in piedi. Forse il limite è quello dello sfilacciamento, è quello un po' della frantumazione. Allora, proviamo a lavorare assieme. Proviamo. Questo è un invito, naturalmente. Decisamente, sì. Decisamente un invito molto, a... molto fattivo, molto concreto, per darci un possibile una sollecitazione alla cooperazione, alla proposizione di iniziative e alla costruzione stessa delle iniziative. Io penso che Firenze abbia bisogno estremo di un rinnovamento, di un ritorno della presenza, della nostra presenza nella città, di una riappropriazione. Assolutamente, è un tema che sicuramente tocca tanto il centro quanto la periferia, ma anche la campagna, si può dire. Nel caso fiorentino è palese l'esempio di Mondeggi, perché Mondeggi sta subendo delle pratiche che sono molto vicine, anzi si può dire che sono collegatissime a quelle che succedono qua nel centro, e stanno rispondendo, si stanno attivando anche in direzioni ben precise. E quindi sicuramente sì, l'invito è quello alla collaborazione e all'impegno per un appuntamento che concreto, come dicevi te. Roberto? Una parola d'ordine che ci serve a dire tante cose, forse. Io credo che si debba riproporre l'alleanza fra le periferie e il centro. Cioè, negli anni in cui si studiava di più l'urbanistica e aveva un senso, perché si pensava a delle trasformazioni progressive della società e quindi dell'habitat, si diceva che il centro si salva, cioè si mantiene, si salva, si sviluppa, si legge, insomma, avrà un suo percorso storico se si interviene nelle periferie. Credo che sia ancora valido, e questa alleanza è oggi è ancora più indispensabile. Cioè tutta la compagine urbana, tutto il costruito deve diventare città. Queste periferie non hanno senso come tali, e guardate, anche se le periferie fiorentine non mostrano delle difficoltà, insomma, non mi piace la parola del degrado perché è usata malissimo, però insomma dei momenti di caduta, di socialità e di spazio, tuttavia hanno bisogno di avere dei luoghi centrali, insomma. La differenza è ancora quella della produzione e l'uso della cultura. Allora, richiamarsi al centro antico come non nelle forme, ma per quello che ci ha insegnato nelle relazioni. Cioè il centro è tale, è così ambito, perché si è stabilito delle relazioni fra gli spazi che diventano poi relazioni complesse di tipo sociale, di tipo culturale in maniera più vasta. Da lì, dal centro, dobbiamo imparare a costruire una centralità nelle aree periferiche geograficamente. E queste idee, secondo me, potrebbero forse avere uno spazio pubblico, diciamo un dibattito, entrare in un dibattito. L'altra cosa che vorrei dire è la difesa degli edifici pubblici, specialmente se monumentali. Si è fatta una battaglia per non vendere la Villa di Rusciano e forse insomma si riuscirà a ottenerlo, però non ammettono mai che non si vende, rimane nell'elenco, però per ora non è venduto. E questo è importante anche rispetto a quello che dicevi Mondeggi, cioè la città non è il centro storico, sono le colline, la collina fiorentina, i paesi che stanno intorno, la corona intorno alla piana fiorentina, quella che vogliono invadere, tutto questo è la vera metropoli, soltanto che va letta diversamente dalla smart city. E Valletta, io ricordo che fra l'altro uno degli slogan di Nardella era le periferie al centro. Purtroppo non siamo vicini in queste assunzioni, in questa visione. Perché non c'è nulla che basta vedere le linee tranviarie, insomma, come sono state pensate. Sono tre mezze linee quelle che stanno facendo e propongo delle cose, degli aborti continui. Tutto converge alla stazione, hanno distrutto la fortezza, il Villa Vittoria e tutto quello, per dirne solo una, quando avevamo due linee ferroviarie che potevano essere metropolitane, la Leopolda e il Laccio Interno. Beh, basta così, credo. Sì, diciamo che le periferie al centro, considerando che al centro l'intervento di Nardella è appunto, può essere visto come per esempio Piazza Ciompi, no? Che non ha nulla a che vedere con quello che vuol dire centro. Cioè centro fa riferimento appunto, come si diceva, a una ricchezza relazionale. Esatto, relazionale, che le periferie non hanno avuto accesso, e quello che si va a fare è adesso, che è evidente, no? È quello di andare a fare oppressione, a reprimere qualsiasi tentativo anche solo di uso di quello che il centro storico ancora garantisce, nonostante appunto tutto quanto. E in questo momento io credo che questo sia particolarmente evidente a Firenze come a Venezia, per quello che ho visto, è legato parallelamente al governo che abbiamo e alle giunte comunali, cioè alle amministrazioni, scusate, comunali che abbiamo, dove appunto il securitarismo eccetera è andato a colpire soprattutto i luoghi di incontro, le piazze, oltre ogni tollerabilità umana, no? E ovviamente questo è stato fatto, per esempio la legge di quest'estate, no? l'ordinanza antibivacco colpiva molto nelle periferie, cioè si metteva Santo Spirito fra altri siti, no? Questo insieme di cose comunque ha fatto nascere, per quanto si parlava, no, di su cosa lavorare, una reazione. E appunto per quello che si vede in varie piazze di Firenze sono nate assemblee, appunto noi abbiamo conosciuto i ragazzi della Vida a Venezia. No, che sono comunque abitanti che si sono riappropriati della propria piazza e hanno iniziato questo percorso che poi si è tradotto, ha cambiato di scala ed è diventato appunto sono diventati grandi partecipanti della rete di SET. E quindi credo che in questo momento, dove un governo di questo tipo propone certe politiche delle amministrazioni le vanno a mettere in pratica nello spazio pubblico, veramente il soffocare di qualsiasi possibilità di vita al di fuori delle dinamiche monetarizzate, no? della città neoliberista, credo che sia una necessità vitale che il centro storico espone come prodotto, no? Ne espone un po' il prodotto e quindi diventa simbolo, ma che deve essere appunto lo stimolo e l'esempio, e può essere una lotta che può anche comprendere campi ben oltre quella dell'urbanistica. Non ci scordiamo che tutto questo deriva per buona parte dal decreto Sblocca Italia risalente al governo Monti. E comunque, appunto, sono tutti esempi di Sblocca Italia e Renzi. Renzi, sì, sì, vero, giusto. E comunque, appunto, le pratiche ci sono, si sono messe in atto già adesso, ma sicuramente vanno messe in atto con più decisione. L'occasione di SET è un'occasione reale, in particolare si può dire per la realtà fiorentina, perché se nei prossimi mesi riusciremo a fare questa cosa, probabilmente anche in un'ottica di si avvicinano le elezioni, potrebbe essere influente sul territorio fiorentino. Detto questo, rinnoviamo l'invito naturalmente a ascoltatrici e ascoltatori, a chiunque voglia partecipare, ci può scrivere per chiedere informazioni a postawombat@insiberia.net. Parleremo sicuramente ancora di questo tema, ma vi aggiorneremo e continueremo ad invitarvi alla partecipazione di questa iniziativa. Nel frattempo direi che ci possiamo salutare, abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata. Bene, grazie, saluto tutti gli ascoltatori e un arrivederci da Antonio. A prestissimo allora. Grazie a voi. Arrivederci. Olmo. A presto. c'è, che io sto troppo avanti. Sto avanti, sto troppo avanti. Non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti? Non posso più tornare indietro. Altro pezzo. Bye. Siamo tornati per la chiusura, questa puntata zeppa di urbanistica, tema che a noi carissimo, molto molto caro, e avrei anche un sacco di cose ancora da dirvi. Una ve la dico, ho avuto occasione di visitare Sant'Orsola questo fine settimana, perché il comune, anzi la città metropolitana, dopo aver annunciato questi fantastici lavori dove rifaranno la facciata, il tetto, grazie ai 4 milioni, bla bla bla, era possibile in questi fine settimana visitarlo in modo gratuito, e sono entrato dentro e sono rimasto veramente sconvolto a dir poco, per la quantità di cemento che hanno utilizzato per ricoprire tutto, non è rimasto assolutamente niente, tutto coperto col calcestruzzo, cosa che rende anche impossibile poi il restauro, cioè non puoi rimuovere il calcestruzzo, se rimuovi il calcestruzzo viene via tutto. Quindi magari abbiamo avuto modo di parlarne, magari avremo a modo ancora di parlarne. Nel frattempo noi vi salutiamo e ancora vi scriveteci, postawombat@lensiberia.net, rimanete collegati perché... Coccoli al silicio alle 21.30, ma subito dopo di noi la rassegna eventi del Wombat. Esatto, ci vediamo allora settimana prossima, grazie per l'ascolto, Wombat Womba! E vai! E togli le mani dal ding dong, così parliamo liberamente. Guardati attorno, ti sembra boreale questo mondo? È da sciocchi non notare tutti i dettagli arraffazzonati. Guarda quel tizio, mette un panino fra due hot dog. Non so, Rick, insomma, ho già visto farlo. E guarda quella ziara, gira col gatto al guinzaglio. La signora Spencer lo fa ogni volta, Rick. Non mi interessa, la Spencer Morty è un idiota. Ok, di quello, che ne dici? Ok, mi hai convinto con quello. Davvero, Morty, sicuro di non averlo già visto nella vita reale? No, non l'ho mai visto, cioè, perché una fetta di pane vivrebbe in un tostapane? Insomma, è il luogo più spaventoso in cui potrebbe vivere, mi capisci? Stai perdendo il punto, perché guida un tostapane in miniatura? Voglio dire, la tua auto è la versione in miniatura di casa tua? Fuoco alle polveri. Go how Paul Berry. Radio Wombat.